qualcuno su 10? Ora. E l'orario è quello. Eia. Ieri sera sul, non mi ricordo se era sul 30 o che canale era, sul 32. Cazzo, ho fatto un DX con Londra, ragazzi. Ogni tanto capita, anche ieri c'era un tipo, eravamo sul 10 però non lo facevano entrare, o stava chiamando, mi ha risposto, gli ho fatto un saluto, poi c'era un po' di confusione, alla fine abbiamo abbandonato. Eia. Vediamo se c'è Genio da Porta Torres. Eugenio. C'è anche poco QRM oggi, dai, rispetto agli altri giorni. Ehi, è basso, infatti il laghetto è proprio, si ferma proprio all'inizio dello strumento. Ricordami, me l'hai già detto, però non me lo ricordo. Che antenna stai utilizzando tu, Vane? Io c'ho una Boomerang della LEM, quella grande, quella a 3 metri. Ma c'è le radialine? C'è un radialino, sì, orientato a 45 gradi. Che non arrivi molto molto bene. Ricordami la zona, mi ha detto dove sei. Zona stazione. Stazione, cazzo, ora sta arrivando la grande. Eia. Vedo da qua, dalla finestra riesco a vedere l'antenna di Natalino, credo che sia la sua. Poi ne vedo una alla testa dei Cappuccini e una in zona di Viale San Francesco. Vedo le punte, mi dovrei prendere il binocolo per vedere meglio, dai. Ma perché tu sei in alto come elevazione della casa? Sì, sono al terzo piano, dai. L'antenna quindi ce l'hai in alto, non sei in basso, no? Io pensavo, stendevo da una stazione, pensavo tipo col suo vicco di lì in basso. No, l'antenna è sul tetto. Quindi da Talino è zona verso questo Trinità, quelle zone lì, l'ho vista io l'altro giorno, purtroppo è messa in una condizione critica, l'unico che lui gli arriva la bomba è Coso, Luca, che sono abbastanza vicini, e forse quello di Cappuccini, però non riesce a radiare bene con la tela perché è troppo bassa, la devi sollevare un po', purtroppo c'ha dei problemi di vicinato lui. A Natalino quando era su dove abitava prima già si faceva sentire, faceva male un sacco di gente. Sì, diciamo che da qua riesco a vedere la punta, dai. Si vede la punta spuntare dai tetti. Ma no, non sei proprio la stazione, tu sei un po' più su allora. No, stazione. E come fa a vedere la stazione di Natalino? È impossibile per la vita. Fidati, che la vedo. Vedo Cappuccini, vedo il campanile, vedo la punta di quella sorta di piramide del teatro comunale, vedo un sacco di roba. Sì, quelli non lo metto in dubbio, ma quelli sono, ma la Natalino, strano, perché lui è un po' nascosta come cosa rispetto alla strada normale, dai, rimane un po' all'interno, non lo so, può darsi, meno che non tu lo scavalchi di altezza. Registrato il break, avanti. Massimiliano, tu sei. Bene, bene, da Santiago 2, Radio 3, dai. No, qua sì, allo strumentino mi dice così. Invece la parte mia quasi 9, Radio 5. Ma è molto alto, sì. Che io non già sta arrivando bene. Quasi 9, segnale, la Radio 5, dai, non posso dire niente. Considerando le condizioni sta andando più che bene. Io ho una domanda che avevo fatto dall'altro giorno, ma cosa, Gattino, fa sempre lavorare? No, vabbè, non dico, ma il laboratorio, perché un paio di volte sono passato davanti, però vedevo chiuso, forse in orari che lui era fuori o che cosa, non so, poi un altro settore, quello che sta decadendo, prima si riparava tutto, ormai si è già imbattuto, non si compra più, non si ripara più niente. No, meno male, sono contento, perché molti laboratori, non so quanti anni hanno chiuso di laboratori, mi adesso stanno andando i cellulari, questo cazzo di affari dei cellulari, cambiare schermi, cose, ti fai lavoro abbastanza veloce, ti fai 40-50 euro di manodopera. I televisori adesso stanno iniziando a riparare, i televisori, questi LCD, perché prima non ne riparava nessuno, adesso piano piano qualcuno si sta mettendo anche a riparare. Però rispetto a 20 anni fa il lavoro del radiotecnico è calato tantissimo il lavoro. Non so quanti ce ne siano operativi a Sassari, ma saranno sulla punta delle dita. Ehi, guarda, adesso mi sono messo gli occhiali, Santiago 3 qui, Massimiliano. Una domanda, Vanni, ma tu c'hai un indicatore a LED o a lancetta? No, io c'ho lo Smitter classico, lo lago. Come fa a avere 3 di coso e a tirarlo fuori tu? Cioè, e il QRM allora quanto c'hai? Guarda, il QRM, cioè il laghetto non si muove per niente, lui mi arriva a 3. E allora mi sa che quello Smitter te lo devi mettere a posto, perché il QRM di media deve essere almeno 5, 6, 7, dipende dalle situazioni dei disturbi, però se non si muove la lancetta probabilmente quel coso, quello Smitter c'ha qualche problemino o la taratura dello strumento, eccetera. E io quanto ti sto arrivando per curiosità? 9 più, abbondante. E qua tu sei quasi 9 più 20. Strano un po' questo discorso qua, va bene. Ok, cosa mi ha detto? Che apparato è il tuo? A me sta dicendo... E a te, va. Guarda, me l'ha dato Marco Condor, è un Super Jupix 2000, praticamente molto simile alla Superstar 3009. No, ho capito. No, la radio va benissimo, probabilmente lo Smith, molte volte questi qua, con l'inerzia, i colpi che hanno preso, magari troppo, gli è arrivato un segnale troppo forte, piano piano tendono a coso, a deteriorarsi, dai, perché sono parti mobili, meccaniche, per cui c'hanno delle usure. Ok, no, l'ago è sempre più bello, dai. Su certi tipi di utilizzi di radio a me piace più l'ago. Ci sono delle radio nuove, dei nuovi ricevitori, dei nuovi cose, c'hanno indicatori a base luminose o a LED o a diodi, eccetera, però preferisco questo. Mentre sulle piazze di registrazione dove è necessario avere delle precisioni più delle cose più precise, dai, delle indicazioni più precise, lì preferisco sempre i LED. No, ma me l'ha detto anche Marco che praticamente lo strumentino di questo apparato è un po' arrivati giù, hai capito? Quindi non è, tra virgolette, tantissimo attendibile. Guarda, lo strumento mi sta indicando, sì, circa 8 watt, dai. KK, sì, non lo metto in dubbio. Aspetta, ho sentito Natalino, buongiorno. Non lo metto in dubbio, guarda, io ti ripeto, a me Marco me l'ha data che era, cioè, è nuova di pacca la radio. Praticamente mi ha consigliato di provare ad aumentare la potenza NM e l'abbiamo fatta insieme, ma per il resto lo Smitter e come esce tornato a casa. Quindi ti ripeto, da quello che mi ha detto Marco, faccio fede a quello che mi ha detto lui, quindi lui mi ha detto che è un po' arrivato in su e quindi ci regoleremo di conseguenza. Non mi voglio metterlo, non mi voglio mettere a toccarlo, perché con il rischio magari di sabotarlo troppo, dai. Dai che facciamo entrare Natalino. Avanti Natalino. Ciao Gianni, buongiorno a tutti, dai, non ho fatto ascolto, mi direte. Ok, avanti Gianni. Ehi, guarda che c'hai un problema col cavetto del microfono, ogni tanto sparisce la voce Natalino. Sembra che ci sia un falso contatto. Ho un problema con la voce, così. Ogni tanto sembra che ci sia un cavo interrotto, capito? Ogni tanto sparisce la voce. Sì, evidentemente non schiaccio bene la portante, perché questo è un microfono del cavolo, va. KK, ok, vai Robè. Ciao Natalino, ben sentito, vai Massimiliano. Ma Tommaso, ti ascolto. Ma già ti ho ascoltato Massimiliano, buongiorno. Vanni, la taratura dello strumentino non toccare niente se non sei in condizione di farlo, se no magari ci rischio di fare danno. Se c'è qualcuno che ha un generatore, tu prendi questo generatore e gli dai una tensione di 150 o 300 mV, dipende da come lo vuoi tarare. Normalmente i nuovi apparati sono tutti tarati a 300 microvolt e deve dare un segnale di 9, mentre tutti gli apparati diciamo di qualche anno, di 20 anni, tipo 140, apparecchi così, per arrivare a un S9 devi arrivare con 150 microvolt, quello è il sistema giusto per, diciamo, quelle delle normative internazionali. Per dire, facciamo un esempio, un 140 per arrivare a S9 ci dovevi mettere, bastavano 150 microvolt, mentre il 540 ce ne volevano 300 per avere lo stesso segnale, e qualcuno dice, cazzo, il tuo è morto, non riceve bene. No, è così, sono diversi tipi di taratura, addirittura ci sono apparati che hanno l'S9 a 500 microvolt, per dirti, per cui qualche problemino ce l'hai, non è niente di grave, però magari basta toccare un peluzzino se c'è la possibilità, ma non toccarlo tu naturalmente. Ci vuole lo strumento, si fanno con gli strumenti quelle cose lì. L'S9 gli dai un segnale di una tensione di 150 o 300, dipende da cosa vuoi fare. Io ti devi mettere a 300, visto che più o meno tutti siamo tarati su quell'intensità di coso, di segnale, e fai il lavoro perfetto. Eia eia, sì, vabbè, ti ripeto, Marco me l'ha data così, l'unica cosa che abbiamo fatto assieme è quella di tirargli su appena appena la potenza e basta, ma tanto più di questo non fa, in AM più di questo non dà, quindi col watt e motore qua con lo strumento l'abbiamo settata così e ciccia, poi per il resto ti ripeto è totalmente originale, quindi è questa la situazione. Guarda, non, ti ripeto, non lo voglio toccare, non mi interessa per adesso, quindi la lascio così. Niente, quindi già mi ero stato avvisato che lo strumento non è così preciso, dai. Avanti Massi. Ia uia. Io lo stesso non ne ho lancette qua. C'ho queste barrette, ma non lo. Un attimo che mi stanno chiamando al telefono. Ok, va bene. Ok, facciamo un attimino di bianco, vediamo se qualcuno nel frattempo si è alzato o se ha voglia di entrare. Attenzione, canale 10 in compagnia di Roberto di qua a questa parte, Natalino un attimino che si è allontanato, Massimiliano e Vanni. Ok, lasciamo un attimino di bianco e poi vediamo. Se no riprendi tu Vanni. Vai Vanni. Eia eia. Sì, infatti, anche, cioè, per esempio tu, anche Natalino che ce l'ho molto vicino, anche Claudio, praticamente lo smitter praticamente è come se arriva un certo tot e si blocca, più di un tot non va avanti, capito? Quindi già mi ero fatto un'idea che sicuramente voleva sistemato, capito? Perché non è possibile che certi segnaloni praticamente arriva appena al 9 più e da lì no, e lì si pianta, capito? Non c'è problema, l'importante è ascoltarsi, poi anche se non hai di smitter, io ho iniziato con il portatilino, mica c'era lo smitter, mi ascoltavano e andava bene lo stesso. Poi se uno deve dare indicazioni precise e dice sì, c'è un apparato affidabile, oppure dice no, non ti fidare che questo è un indicatore fittizio. Eia eia, Boh, quando sarà già lo mettiamo a piombo, dai. No, non è, presente, non è una critica, è soltanto un'osservazione che ho fatto, come ha detto Massimiliano, nel senso, non è credibile che tu arrivi 7 mentre è coso in ricezione tu c'hai 3, perché a 3 un segnale di 3 come comprensibilità non lo senti, lo senti mezzo di tutto disturbato, che tu hai detto, te lo ascolti abbastanza bene le radio. Così è, vabbè. ti ripeto, evidentemente è una caratteristica di questa radio che è un po' tirchia, ho capito, ma già lo sapevo, quindi non mi sono messo problemi, no. Io al contrario ce l'ho nel pace, quello invece ti dà segnaloni allucinanti, cavolo, arrivano quasi tutti oltre i 9, anche se magari è 7 in realtà. Eia. Capisco, vabbè, chiaramente vuole fatta la taratura, vuole fatta con gli strumenti appropriati, non è da fare occhiometro, e quindi così. No, adesso stavo pensando, sono riuscito a capire l'antenna di macchina che c'ho io, dovrebbe essere una PLC 800 della Sigma. No, vabbè, io di macchina non ne ho mai messo, ne ho una, me l'ha regalata Salvatore Maestrale, una, non so cosa sia, quella è tipo una frusta in fibra di vetro con una molla sotto, nuova, magnetica, l'avevo messa una volta nel camper, ma siccome nel camper c'avevo l'antennina sua, e ce l'ho ancora, tra l'altro, poi la base c'è, ho detto proviamo con questa, ma una volta soltanto, non ne ho mai utilizzato. Quanto ti arriva con questa, o Gianni? Qua sei 9 più. Addirittura 9 più. Bello, sempre a strumento, Va bene, no? Ok, sta ascoltando dall'altra parte, c'è un bel compass. Ah, comunque sei quasi 9 più 20, Massimiliano. E tu più o meno lo stesso, 9 quasi 20, e 18, Più o meno si equivalgono i segnali, dai, deve avere naturalmente la parità di potenza, com'è, perché le prove si fanno, dire c'è un watt effettivo, tu c'è un watt effettivo e vediamo il rendimento delle antenne rispetto all'altra, perché se io ne ho 10 e tu ne hai 5 o viceversa, i confronti, non è che cambi più di niente se ne hai 10 o se ne hai 20 di potenza, non cambia più niente, se ne hai 10 e ne hai 100 a quel punto cambia. Guarda, io qua c'ho 15 watt. Più o meno sarò anche io quella roba lì, ma anche se ne ho 20 o 25 non è che cambi, parliamo a parità di antenna, per avere una grande differenza deve avere, cioè la differenza la noti da 5 watt a 100 watt, così la noti la differenza, ma se ne hai 20 o ne hai 40 non è che cambi proprio niente, ma che non c'è uno strumento di misurazione super affidabile tarato in microvolt eccetera, con questi algo c'hanno un'indicazione abbastanza credibile, ma non è precisa. Già lo so, ma io sto andando. Vabbè, con quella radio che sei tu e la Mantova 1. Siamo nelle stesse condizioni, Mantova 1 è più o meno la stessa radio. Io ho il 44, tu la c'hai il 14. No, 44. E allora siamo più o meno di corso. E qua saranno la stessa, una quindicina, saranno 15-20. Positivo, va bene, era giusto così la prova. Capito. No, la voglio mettere in un'altra antenna perché almeno posso lasciarla sempre diretta questa sulla radio, capito? Così ne attacco anche lo strumento, me la faccio diretta, tanto giusto per l'ascolto, e l'altra me la uso col baracchino, va? No, io ho anche l'altra possibilità di antenna, perché ho una di quelle multibanda, larga banda, è una che fa da 25 a 1300 di escursione, una bella antenna, tutta in acciaio inox, piccolina, ma ti posso dire che funziona più che bene, per dire, non ha la resa della Mantova, la Mantova è comunque più grande, un'antenna con performante, però ti posso dire, per dire, se arrivi 9 con l'altra, con questa piccola qua, la Mantova magari arrivi 9-10, però l'eccezione se la cava abbastanza, perché io faccio le commutazioni ogni tanto a vedere, e ti posso dire, nel suo piccolo funziona, dai, più di una Grand Plane, c'è radialini tutti in acciaio inox, la base in alluminio, il pianto dove attaccano i radialini è in coso, in presso fusione cromata, in alluminio cromato, c'ha poi mi pare 4 radiali, un altro di un'altra lunghezza, vuole si tarà anche con l'antenna, c'è la possibilità di tararla perché gli steli sono allungati, posso dire, è costruita molto molto meglio di antenne di prezzi molto più alti. L'avevo preso dalla GBC e ti posso dire è eccezionale quell'antennina, la uso su ricevitori, però funziona bene anche a trasmissione, sino ai 1300 MHz qua. Buono, buono. Guarda, io quando ero l'ho sceso? La settimana scorsa avevo il disco della Daimo, una giornata in terra, tutto sedotto. Sul tetto c'era un armetto, non ti credo che c'era chissà che cosa. Tutto oscillato e niente, ogni tanto sul tetto c'era il radialino in terra, e mi ha preso di tutti i radiali. La settimana scorsa mi ha fatto incantare la giovane tutto in terra, via. E mi ho tenuto lo stilo centrale che lo voglio modificare per lo scannerino. Sì, no, ma ci sono antenne, ho visto quelle certe Grand Play che sono un pezzo di dubu d'alluminio vuoto, cavo, ma da questa ti posso dire, non perché ce l'ho io, non per vantarmi, non mi piace vantarmi, c'ha una costruzione, ho detto alluminio presso fuso, invece è in ottone, fusione di ottone cromato, tipo nautica, ma tu devi vedere come così, tutte le cose, tutto in acciaio inox, tutti gli stili sono abullonati in acciaio inox, c'è possibilità anche di tararla, c'è un radiale più lungo del più lungo degli altri, dentro una cosa in acciaio inox, un tubo che si allunga, lo regoli per regolare, cioè per dire se devi lavorare su certe frequenze che magari va un po' fuori accordo, ma ti posso dire funziona più che bene con l'antenna. Poi ne è un'altra per le V o le U, però quella qualitativamente non è un granché, anche se c'ha il coso di alluminio, ne è dato una volta, me ne è caduto uno in terra, ce l'ho sempre conservato, di quelle antennine piccoline, e basta. La Mantova sta sempre andando, ce l'ho dal 2004, però gli ho fatto un lavoro di assoluta sicurezza, gli ho tutto trattato, gli ho messo il coso, il grasso di vaselina dalla testa ai piedi, in modo se la devo anche dall'esterno, se la devo smontare, tutto vulcanizzato, in modo che un domani, se dovesse succedere qualcosa, è pronta a ripartire. Però c'ho di scorta, c'ho sempre la Mantova Turbo e con la grossa PK31, non so come si chiama, con l'antenna di 9 metri, quella quando c'ho tempo la piazzo, quella mi sembra sia a 4 bande. Vabbè, anche io quando, forse la mia c'è una ventina d'anni sul tetto e non l'ho mai scesa, e adesso qualche tanto devo portarla giù perché diciamo mi si è ossidato leggermente la fascetta che tiene la spirale e quindi si è abbassata col vento nel tempero un pochino, mi ha sollevato la stazionaria, non me ne sono accorto e mi ha bruciato anche cose, diciamo così, no? Quindi l'ho riportata su, adesso 1-1 da tutte le parti, però al centro della fascetta, tra lo stilo centrale e la fascetta, gli ho messo un chiodo infilato col martello e poi delle fascette, sai, quelle classiche che tiri, quelle in plastica, là, momentaneamente finché sto a non scendere del tutto, l'ho solo abbassata adesso, infatti i tiranti sono tutti mollati e sono dentro un altro palo. Va bene lo stesso comunque. Quanto è alto il palo, Massimiliano? Allora, il palo che c'ho, il palo è 3-4 metri, e all'interno c'è l'altro di 5 metri. Già sei abbastanza alto, dai. Okay, perché almeno 3 metri da terra le devi sollevare le antenne, molti le mettono quasi a filo di terrazzo, però non fa, per farla lavorare bene con l'antenna, e poi soprattutto devi usare il cavo buono. Io ho messo come cavo quello grosso, 213.000, quello norme militare, super rinforzato, quasi tutto questo lavoro, una volta definitiva il connettore dell'Amphenol, tutti saldati, fatti bene, proprio deve essere un lavoro che non riduchi più, perché ho visto gente per la fretta di piazzare usa cavo sottile, cavo LRG58, connettori guida in teflon che non servono a nulla, che si ossidano, questo tutte le connessioni dove attacca, ci ho messo tutto grasso di vasellina, tutto in modo sigillato sopra, in modo che non che ho fatto il passaggio sotto per l'eventuale condensa, guarda, lavoro di prima, il palo tutto sovredimensionato, me l'ho fatto in officina con tubi d'acqua, quelli grossi, uno dentro l'altro, con le saldature, i bulloni da 17 per stringere, guarda, non per vantarmi, già l'ho vista Claudio, un lavoro di grandissimo cosa, tutti i tiranti con i regolatori in modo che ogni tanto la tiri, adesso mi devo controllare, con i tiranti regolabili perché un po' il cavo tende a molare, cavo d'acciaio grosso da 6, anzi anche di più di sera, forse da 8, tutti i tiranti sono fatti così in cavo d'acciaio e con i tiranti di regolazione che registro. È un bel lavoro, no, anche io ho fatto così, ho anche io chiave da 17 che mi tiene il tubo all'interno, fine gli ho messo uno passante in modo che quando tu lo abbassi proprio si siede lì e poi vai a stringere gli altri. E poi diciamo, io non le ho messe cavi in acciaio, ho messo le corde sottomarine, quelle fine che usano i pescatori per le reti, però non quelle piombate, le altre. E va bene lo stesso, è un bel lavoro. La mia non si muovono, sono innocenti dentro il muro con quelle, con quei morsettoni grossi, chiave da 24, e andiamo. E che non gli ho fatto la scaletta unilaterale, sennò sarei salito anche sul palo e non si muove per niente, il caldo già l'ha visto lo stesso. Cappa cappa, va bene, avanti Gianni, un buffè. Via. No, volevo dire a Roberto che prima di usare la boomerang stavo uscendo con la... uscivo con la PLC 800 collegata sul tubo, già c'è anche Massimiliano testimone, già nonostante fosse un'antenna di macchina già riuscivo a farmi sentire, dai. Sì, no, ma tanto diciamo, sa se non è estesa come superficie, più o meno. Io ti dico, la prima volta mi ha ascoltato Luca, c'ero dentro casa col portatilino, un piccolino della, come si chiama, della Intec, l'Endy, come quello piccolino, con l'antenina sua in gomma di 20 cm, Luca mi sentiva, poi piano piano mi sono fatto sentire da tutti, ho iniziato con una mini Grand Plane, quelle in resina che c'era ancora, quella lì, nonostante piccolina già si faceva sentire, poi subito dopo ho piazzato la mano. No, questa quell'antenna insieme insieme all'apparato che ho recuperato li ho tutti da un vecchio camper Arca, un motoroma dell'Arca su base Ducato che era dismesso, e sono entrato dentro, ho aperto il cassettino di cruscotto e ci ho trovato un vecchio baracchino e mi ha giubilato tutto. Ma proprio dove è questo Arca? C'è per caso un quadro comandi? Dove ancora esiste? Non lo so, è in campagna da un mio amico. Ah vabbè, se capita. Per un quadro comandi, perché ne sta mettendo uno, magari se c'è qualcosa di recuperabile di roba elettrica, vabbè dai, se dovesse succedere magari è cosa. No, diciamo, parlando di antenne ho iniziato, forse in tempi, nel senso avere la passione e farla così subito, poca gente, per dire partire dal niente e poi fare qualcosa di più sofisticato in pochi mesi. Mi è venuta subito la paranoia, subito mi hanno aiutato Claudio e anche altri amici, ognuno mi ha dato le proprie conoscenze, il proprio supporto anche manuale per fare certi lavori. Ho iniziato col coso, con quel portatilino, poi mi hanno regalato una lampada foto che c'era ancora nuovo fiammante, l'ho usato per un pochettino, poi Claudio mi ha fatto prendere un base della Pace, da lì poi è passato tutto il resto. Dai, ne ho diversi di apparati, grazie a Dio, non dico che sia roba fuori serie, ma cose che qualcosina si fanno sentire. L'altro, quello che ho staccato dal camper è un vecchio 40 canali quarzato, ne ha solo 27, però è un vecchio baracchino giapponese degli anni 70, veicolare 78-79, boh, sono riuscito a trovare anche lo schema elettrico su internet. E niente, c'è solo il volume e lo squelch, boh. E praticamente l'inverno scorso già lo so che Massimiliano stava usando quello, e niente, ogni tanto lo attacco giusto per farlo camminare. Sì, meglio farli funzionare sempre. Ok, vai Massimiliano. Sì, dai, riprendo io che vi saluto, che vado accendendo il fuoco, no? Cioè non stiamo qualcosina oggi. Magari ci aggiorniamo stasera, ok? Va bene, saluto Natalino, Roberto, Cate Gianni e chiunque fosse in ascolto del canale 10, va? Vediamo un po' se riprende Natalino, se no riprendi tu, vai Roberto, ciao, ci sentiamo. Vabbè, riprendo io Natalino, pure era al telefono, mi sembra, almeno ho capito così. Ciao Massimiliano, se ci siamo naturalmente, ci sentiamo eventualmente stasera. Buon tutto, buona carica, anche io rimango ancora un po' e poi prepariamo qualcosa per darci un po' di forza, dai. Vai. Sono entrato e hanno sgabuzzato, e quindi ti devo lasciare anch'io, Robert, dai. Ci aggiorniamo magari questo pomeriggio, che sicuramente magari ci sarà qualcun altro. E niente, dai, buona carica anche a te, ci aggiorniamo più tardi, d'accordo? Niente, a più tardi, dai. Sì, dai, ci sentiamo con calma, io rimango un po' qua acceso con Rix, vediamo se entra qualcuno, se no faccio dell'altro. Ok, ciao Rani, buon tutto. Avanti, su 10 se è rimasto qualcuno o se qualcuno vuole entrare, avanti. 1, 2, 3, hola, hola, hola, hola. Hola, 1, 2, 3, prova, hola, prova, hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, 1, 2, 3, prova, hola, hola, hola, hola, hola, 1, 2, 3, prova, hola, hola, hola, oh, oh, hola, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Ma tu sei un gravidenti, e beh tu, pronta a mangiare, e non c'è nessuno, pur strano che non c'è stato nessuno, quelli sono in giro, c'è doppio room, Claudio, tutti gli altri, tutti in giro sono, poi se mi ascolti, ti ascolto un po' basso, vabbè, ma un bel basso qua, sono giù, dai. Ehi, io sono in macchina, dai, sono in macchina, sto facendo un giretto. L'umani. Un giretto dalla cucina sino alla camera da letto. Alla... Gianni, tu nemmeno se ti ammazzano la metti da tempo la macchina. Cosa? Ho detto che a te nemmeno se ti ammazzano la metti da tempo in quella macchina. Magari caramini con la magnetica, però ci metto lo straccio sotto. Me lo fa contatto, mi sa, vero tu? Vabbè, là. Io oggi dopo un goffo ho fatto un po' di fischi, non c'era nessuno, lo aspetta, lo riaccendo, vediamo un po' se c'è qualcuno, là. Tanto io verso le 5 arrivo a destination. Cavagala, io stavo regolando l'apparecchio. Poi è entrato qualcuno a disturbarmi, allora ho girato. Salvi? Mi stavo regolando l'ecco, dai. Poi è entrato un disturbatore, allora me ne sono andato in un altro canale. Mi hanno detto se mi sentivo male, non so come. Ma... Lucas! Lucas! Mi pare che ci ne può cagare a Burundu. No, è quasi pronto qua, già. Aspetta, ripetendo troppo, non mi piace, aspetta. Scusate, ma ne vado in un altro canale. Ehi, avanti. Beh, qualcuno c'è. Chi sei? Roberto, chi è voi? Un attimino di bianco, che c'è uno che sta chiamando, non ho capito chi è, avanti. Bassino, sì, dai, la radio è 2, e Santiago è 3. Chi Franco sì, non ho capito. Ah, di sorso, di sorso. E come si scende così basso? Ah, vai, vai. Gira lì il carro, un bel motor. Cos'è vuoi, guppia? Vuol dire che hai fatto male col di polo. Ciao Claudio, ciao Gianni. Nei 9 mesi. Forse ti ho parlato sopra, ciao Claudio, ciao Gianni, e poi questo amico di sorso lo sento basso, quasi non si sente. Ma di fronte a me manco arriva qua in campagna. Chi c'è? C'è qualcun altro? C'era un quarto d'ora fa, stavamo parlando con Massimiliano e con Vane e Ubroffetta, però si sono tutti e due allontanati per andare a mangiare qualcosa. Anche io rimango ancora un po', poi vado anche io. Vai Claudio. Sì, qua prima delle 2 non è pronto. Oggi siamo in tanti. Ma come cane ti porti qua? E allora, casa va. Sta giocando, correndo, facendo. E lui sta bene lì. Ma lo lasci da solo in campagna, dico, dentro casa? No, è tutto recitato, è tutto chiuso. C'è il muretto a 1,50 m. Per cui è casa sua. Ogni tanto si avvicina al cancello, abbaia. Quando passa qualche macchina, qualcuno. Ma com'è? A Falarore come cane? È un veterinario, puoi avvicinare una cancella. Ti avvicini quando è a casa, a carbonati alla porta, non entra nessuno. Ma devi stare aperto se lo porti in giro, non lo puoi lasciare libero. No, sempre a guizzare. La gente che non conosce la mortica, i cani grandi, si tira subito, non... è cattivo, non è più come prima. Quindi devi stare attento, cioè se mi avvicino io a te, vengo a parlare con te e mi si arrabbi. Molto probabilmente sì, se non ti conosce sì. Decideremo entro quest'anno cosa fare, se andarne del tutto o lasciare a lui lì, ma io senza cane a casa non ci sono stato. Sì, ok, chi c'è su 10? Avanti che vuole entrare? Non lo so, io a Franco di Sorso non lo sento, con la Mantova lo sento benissimo, con il po' vuol dire che non è fatto bene. Assolutamente. Non so se è un dipolo 5 ottavi, questo mio è un quarto d'onda e funziona alla grande. No, io ti ascolto 9,40 e oltre pure, sì, vabbè, probabilmente sono più favorevole rispetto ad altri, però il discorso, se tu sei in orizzontale, l'orizzontale probabilmente dovresti ascoltarlo, ma probabilmente è lui che non è in condizioni ottimali. No, non è fatto bene quel dipolo, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, ti aspetta, tu arrivi fortissimo, Gianni lo stesso, ti ascolto tutti, arrivo a Porto Torres, arrivo a lui, arrivo a tutte le parti. Ieri addirittura ho provato, ho fatto una prova anche con Alghero, ieri sera sul tardi, arrivo 5-5 ad Alghero, ho fatto il conto. Io. Ma non c'è più nessuno ad Alghero qua. No, no, no, ho fatto una prova così, con un radioamatore. Valerio, forse Franco, qualche CB è rimasto, ma non stanno più entrando. Che pensavo in questo periodo di calma totale, qualcuno in casa abbia tempo per parlarci, come sto facendo io tra l'altro, perché non ci stavo entrando da un sacco di tempo, ma visto che siamo a casa la sera e soprattutto la domenica che non c'è niente, devi rimanere per forza a casa visto che è tutto chiuso. Cioè, sarebbe stato bello farmi un giro per la città, per dire, con la macchina, è che si taccia a fare del risani, insomma avrei voluto fare un giro per la città, vedere la città vuota, perché di domenica, visto che è tutto chiuso, non ci sarà neanche nessuno in corso. Franco, tu sei? Franco, vedi che non mi sento, non va bene quel di polo. Santiago 1 sei, Franco. Santiago 1 sta arrivando, Franco, non va bene quel di polo, c'è qualche problema. Con l'antenna mi sente bene, e col di polo non mi sente. La polarizzazione orizzontale tutte e due. Avanti, prova, sempre bassa, sempre bassa, sempre bassa. Segnale sempre 3 da me, sempre 3 da me. Già, stai ripetendo troppo quella radio già. E devo regolarla. Regolala, non mi biasi uscì, mettila come la prima. Dille a Franco, che sente solo a te, che qua in campagna non arriva col dipolo, ed è una cosa molto strana. Franco, ha detto Claudio che non arrivi da lui in campagna, che è molto strano. E appunto, dille che col dipolo mi deve arrivare più forte dell'antenna, perché siamo tutte e due a polarizzazione orizzontale, col dipolo non va bene, c'è qualcosa che non va. Vado un attimino a regolare l'apparecchio, un altro canale. Ehi, già, va bene, tu sei 9 più 10, più 2. È strano, strano che non arrivi, deve arrivare meglio dell'antenna grande, perché siamo tutti e due a polarizzazione orizzontale. Quel di polo non va bene, Franco, non va bene. Claudio, quanto ti arrivo io? 9,30. Anche no, tu arrivi più forte. No, io lo sento Santiago 4, oggi c'ho poco QRM, però quasi non si capisce quello che dice, proprio in mezzo al QRM. E ti posso dire che oggi è molto pulita la giornata, normalmente il QRM qua arriva, sì, e certe volte anche di più. Claudio? Sì? Cosa stavi dicendo? C'è qualcosa in quel di polo, Fra, è impossibile, siamo tutti e due a polarizzazione orizzontale. Uno di fronte all'altro, io ti vedo, vedo Sorso, vedo Senno, vedo la punta del Castel Sardo, vedo tutto, è strano che non arrivi, è un dipolo 5 ottavi, deve uscire più forte di questo. Lo so, io ce l'ho avvisata verso giù, ce l'ho, a giù, non mi sta rendendo. Vuol dire che non è messo bene, fra. Devi rispettare l'angolo di radiazione, 45 gradi, deve essere montato bene. Io ce l'ho da un albero all'altro, la polarizzazione orizzontale, ma il mio è un quarto d'onda, 2,75 m. Cazzo, sì. Adesso è molto giù. Hai rispettato l'angolazione, la V invertita è proprio una V, deve essere 45 gradi la V, e i bracci devono essere sollevati da terra almeno un metro con gli isolatori. Sì, sono tutti un metro per gli otto levati anche. Allora l'angolazione non è giusta qua. Non è giusta, hai sbagliato qualcosa, perché io ce l'ho sul tetto, sempre a polarizzazione orizzontale arrivo in capo al mondo. Vuol dire che c'è qualcosa che non va. Controlla bene. Va bene, un attimino. Ma vabbè, l'assorso, Franco, l'assorso. Sì, assorso, Franco. Qua adesso sta arrivando 9 abbondanza. A me mi sta arrivando 9 più 10, fate il conto. Ne ho fatto due io di questi puri, uno l'altro a Sandro. L'aveva messo lì a Porto Torres e arrivava a 9 più 10 a Sassi. Ma cosa, a proposito, ma Sandro non c'è più entrata in radio? No, a Porto Torres non c'è più niente, l'ha tolta l'antenna, adesso la sta montando in campagna, a casa della mamma, capito? Perché lui si è trasferito lì, si è trasferito, Dio, ci va tutti i giorni. Ci ha permesso per andare tutti i giorni a assistere la mamma, quindi adesso la mette lì un'antenna. Ma sempre lì vicino a Porto Torres? San Giovanni. Ah, ho capito, ho capito. Dove c'ha il parto macchine praticamente, no? Dove ti aveva mandato quelle foto. Ah, quella macchina con BMW che mi aveva fatto la Z3, mi pare, Z1. Eia. Basso sì, però riesco a sentirti adesso. Basso. Segnale non ne hai. Non c'è segnale, fra, mi devi arrivare fortissimo. Sì, di fronte a me io ti vedo, sì, ma polarizzazione orizzontale. Cazzo vedo a Roberto, mi arriva 9.30 Roberto. C'è qualche errore, fra. C'è qualche, perché se stai rispettando la V verticale, capito? I 45 gradi dei bracci, allora si tratta di polarizzazione. Non so come l'hai piazzato, però c'è qualcosa che non va. Sicuramente c'è qualcosa che non va. Non lo so. K di Roger. Ecco come. Ecco che sensazionale di Roger. Che cosa hai fatto per passare, per andare dove sei andata a casa tua? Hai fatto Santa Maria? No, io esco da Via l'Italia e faccio lo scorrimento, come si chiama? La camionale e poi giro per Canica. Ah no, ma ho fatto la domanda, soltanto anche io passo di lì, se devo andare ai punti, faccio sempre quel giro lì, non passo dalla città, no, per capire se c'era movimento, se hai visto gente in giro. Assolutamente, quattro pattuglie dei carabinieri e due pattuglie della Guardia di Finanza. E infatti sarebbe una cosa da tenere nella studia della città, guarda, questa cosa ne riparleranno i libri, non ci credi? È deserta. La città è deserta. In campagna c'è qualcuno, perlomeno nella zona di Monte Oro c'è un bel di gente, sono tutti chiusi in campagna. Non lo so, poi ho visto a Giuseppe Magia, adesso scherzando e ridendo, le battute di Giuseppe Magia, dice adesso cazzo, la cosa strana, c'è gente senza lavoro, ci sono i ristoranti, ci sono i ladri che cazzo non possono più andare a rubare perché c'è sempre gente a casa, poi la cosa più brutta, i testimoni di Geova dice che c'era gente a casa, che prima non c'era mai nessuno, non adesso che sanno che c'è gente in casa e non la prendono a testa. No, ma c'è gente in casa non può uscire, se diversi. Cazzo, quello fa troppo, adesso ne ha fatto un altro, oggi ne ho sentito, ogni tanto fa il video, lui a casa sua va, fa troppo ridere. È un piscio solo come parla, poi senza dire le battute, fa solo le fanno, ma bene ne dire in faccia ti fa ridere. Lo so, grande personaggio. Ma c'era Massimiliano così, e dov'è Massimiliano? Volevo un controllo da lui. No, Massimiliano una mezz'oretta è andato via, stava arrostendo, mi ha detto, stava provando a mangiare qualcosa, dai, manca da una mezz'oretta, c'era anche Rubroffetta, Natalino un attimino, poi ha risposto al telefono, Natalino però poi è scomparso, c'è stato qualche minuto e basta, poi non ho sentito nessun altro. Gaffa, Gianni Dottor Rum, ci sei? Perché questo? Gianni. È uscito di radio già. Se sei tu non sei uscito di radio, tu sei. Ma non stai uscendo di radio, solo il pipi c'è. Gianni, quasi niente, si sente da lontano, una voce lontanissima, non stai uscendo, controllati il connettore. Guarda adesso. Sì, adesso sì. Ora va bene, dai. E basta fischiando, mi innesca, che non tocca a te niente, mamma mia, io quando vedo queste cose mi vengono in mente. Lasciate tutto come, una volta che avete trovato l'abbinamento giusto, non sei di Duquesne, difendimi. Una radio, perfetta, non si tocca più. Vabbè, tu se ti fai il fischio non tocchi per regolare. No, non parlo adesso, io parlo in generale, io sto parlando in generale, in questo momento è riferito a te, ma lo dico a tutti quanti. Una volta che tu hai trovato la radio ideale, come quando c'è la radio in macchina, ho avuto la radio, ti hai messo l'altoparlante e tutto, funziona tutto, non tocca nulla, state troppe volte togliendo, facendo e cose, e poi alla fine succedono i problemi. No, ma Gianni c'è sempre bene, è l'unico che non tocca nulla, è che magari abbassando l'eco ha toccato qualche altra cosa già, che stavi andando bene, dimmi, no, io ti ascolto sempre basso, prova, no, non ci siamo, devi arrivare forte, come io arrivo a te, devi arrivare forte, la polarizzazione è orizzontale tutte e due, con la manta mi arrivi 9-10, col dipolo almeno 9 mi devi arrivare. Claudio, oh già, adesso l'ho regolata, dai, non sta più fischiando, come sta andando? Una canonata. Voglio rispondere a Robert, io non sono uno di quelli che tocca gli apparecchi, se lo tocco è perché non va bene, stava fischiando, quindi devo fare le regolazioni, non capivo perché fischiava e c'era la potenza troppo alta, ho capito cos'era. Bene, stai arrivando già, ma schioppettata, 9-10, radio super 5. Cazzo, era la potenza troppo alta, dai, quando è al massimo fischia, non capisco perché, forse perché questo microfono c'ha il top down, praticamente quando tu li metti quello lì è come se avessi un compressore, capito? Già, lo fanno anche le radio professionali, anche a me il 440 o soprattutto il 140, se metto la potenza al massimo e c'ho il mic gain al massimo mi fischia lo stesso. Sono regolazioni che bisogna fare, l'hai fatta, perfetta, c'è bisogno di mettere la potenza al massimo. Questa è una bella radio, cos'è questo? Il Magnum? Questo è il Magnum PI. Magnum PI, quello che si tromba alle donne solo perché c'ha la Ferrari. Adesso la radio è normale, non c'è eco, così dovrebbe essere di lusso, va? Così è bella già, è bella. Non bella, bellissima, va bene, amplificata, bella, chiara, forte, alla grande. No, ma l'eco, il tuo va sempre bene, non è forte, non è che rompa le scatole, però stava ripetendo troppo, capito? Quello lì perché regolando gli ho toccato l'eco. No, ma sono sempre uno l'olimpiadi, l'altro da fastidio, insomma, alla fine poi devi bisticciare, perché uno non può avere i suoi gusti che tutti hanno sempre da criticare, quindi lo tolgo e buonanotte. Va bene, io uso sempre questo tipo di modulazione, oramai la conoscete, no, non mi interessa, però diciamo che tra quelli che ci hanno l'eco, il tuo sei sempre entrato così, con un leggero eco, però la ripetizione era troppo poco fa, per quello te l'ho detto, adesso va bene. Se lo regoli come era regolato sempre, evidentemente l'hai toccato pulendo, se ti sei leggermente spostato troppo di ripetizione, però va bene, non è fastidiosa, l'eco fastidioso in questo locale così a salotto e sono quelli forti, dai, quelli colpi. Ognuno ha la sua prerogativa, no? Per dire di Nino Torre Bravo, te lo ricordi, usciva sempre con l'eco, nessuno gli diceva mai nulla. Vabbè, Nino ci fa, spesso dalla macchina, l'ho visto da poco, anche lui sta invecchiando. Oh signore, interrompo là. Meglio invecchiare, Claudio. Vai, Roberto. Vai, ti lascio, adesso vado a mangiare, dai. Ciao Gianni, ciao Claudio, dai, poi tutti gli eventuali amici. Poi stasera, se coincide, ci sentiamo, dai. Ho visto entrare qualche volta ieri, Claudio un attimino, ha salutato, poi è entrato Fabrizio, dai. Qualche uno dei piani alti si stava avvicinando. Non ho più sentito a Marco, però, come mai? Non lo so. Non so, Marco lo sento ogni tanto in V2, in HF, spesso. No, Fabrizio sì, abbiamo chiacchierato ieri sera, a volte non l'ho sentito, forse è entrato dopo. Io ho sentito anche da poco a Marco Scurti. Sì. Già entro ogni tanto a fare due chiacchiere, e possiamo, sono io, non posso mettere l'altro. Va bene, no, ma loro sono un po' impegnati in HF, soprattutto in 80, a fare prove, hanno fatto una bellissima cosa, sono riuniti tutti i radioamatori, io non c'ho antenne a 80 metri, adesso la devo montare, ce l'ho già pronta, ho fatto una bella cosa, tutti i radioamatori del nord e sud di Sardegna, capito? Tutti in 80 metri per fare le prove, per vedere chi arriva, chi non arriva, ho fatto una bella cosa, una riunione dei radioamatori sardi, tutti in radio, da tutta sud Sardegna, nord Sardegna, centro Sardegna, capito? Una bella cosa l'ho fatto, l'ultimo, io però non ho potuto partecipare perché è da tempo che devo montare sto cazzo di polo degli 80 e non l'ho mai fatto, adesso me l'ho già preparato, però c'è sempre il vento, oggi sembra una bella giornata ma non asciugando, la verità, domani se è bello lo aggancio, le metto gli aggancio al cavo e così è pronto per anche per gli 80, devo fare il 40, il 20, gli altri antenne ce li ho in 15, in 10. Va bene, va bene. Ciao Robè, buon pranzo, buon tutto alle prossime, dai, le prendi già. Ehi, ciao Robè, ci sentiamo. Anche dice che c'era anche un contest ieri. Stavano parlando tutto il mondo. Il contest c'è anche oggi. C'è il contest in 40, c'è il contest in 20, in 15, in 10 non sento nessuno, però il 40 è pieno, no? C'è un traffico allucinante. Ero lì infatti con lo faio perché c'era Zoddo Alghero che stava facendo il contest e quindi ero lì che stavo facendo lo scacco. Adesso ho abbassato il volume, però adesso non c'è, vabbè dove sono io non c'è nessuno. Va bene già, già a me piace spostarmi a destra e a sinistra, ma una la tengo sempre accesa. Dai. Vabbè, capo, ma giù in campagna cosa ti fa? Tu ancora giù sì o no? Non vedi segnale. No, lo sto guardando. E io? Sì, sono qua. Cosa hai deciso di stare lì? No, saliamo. Capo. Vabbè. Oh, io ero una giocata di vanuta oggi, sono un po' stanco, boh, non lo so perché, mi sono alzato alle 8 perché dovevo fare tutta la casa e poi ci ho ripensato, dai. E mi sono messo a cucinare, ho fatto il sugo, adesso faccio un po' di ravioli e mangiamo ravioli, il pollo piccante, un'imbella insalatona, la frutta e via. E c'è anche il budino che ho fatto ieri. Sì, non devo ne fuoco il goccio. La torta crostata. L'ho fatto al forno, poi ho un mal di schiena, che è allucinante. Già da ieri di nuovo ho messo un altro mal di schiena, infatti le punture è finito. Non posso andare da nessuna parte, tutto chiuso, devo fare una lastra per vedere se sta peggiorando. Ma tu hai balle, lascia per infatti per quello che non ti rimango qua, non posso fare niente, ce n'è da fare, non posso fare niente perché c'è un mal di schiena. E ti stavo dicendo qua già ce n'è di mangiare, c'è anche roba mangiata da ieri, però oggi c'è un po' più di gente, va bene. Cosa stavo dicendo? Non me la mangio. No, io ieri sera, dopo che ho chiuso, mi sono fatto il sugo con la salsiccia, adesso metto i ravioli a bollire e via, tanto lo mangio solo la domenica, il primo, almeno la domenica la mangio bene. E dopo, vabbè, c'è il pollo, faccio il pollo piccante, l'ho già avviato, dai, lo metto solo a scaldare, Qua ci metti il pollo piccante, la paprika, no? No, ci metto proprio il peperoncino. Ah, sì, vabbè, se non vuoi usare il peperoncino, dai, usa la paprika. Lo metti direttamente sopra, quando sta cucinando, prende quel piccantino, è buono. No, il sugo con la salsiccia l'abbiamo fatto gli gnocchetti, praticamente, avete che fare per me, te la matriciana. Ho voluto fare i gnocchetti molto buoni. E gli gnocchetti alla salsa si fanno così, con la salsiccia e col formaggio, col pecorino. Ehi, no, e la lì era fatta il cacio e pepe. Cappa. poi se puoi mangiare le cose, se c'è le cose da mangiare, quando non li puoi mangiare veramente innazzata. Io per dire frutta non le posso mangiare, non posso mangiare carboidrati, io dovrei mangiare solo insalatone e basta. E l'altro giorno me l'ho fatto una bella insalatona di cose di, come si chiama, di iceberg, e poi ci ho messo uovo sodo, cipolla, pomodoro e maionese, ma tanto era buono. Buono, sì. Abbiamo fatto la peperonata noi l'altro giorno, peperonata con la salsiccione, è buonissima. E è avanzato un bel po' di sugo, il sugo della peperonata, no? Abbiamo fatto queste pennette con il sugo della peperonata, ma con un po' di pecorino sopra, ti dico, la fine del mondo. E cosa fai? Ti rurapi? No, no, già lo so, anche quello delle melanzane io uso. Faccio per dire, lascio qualche pezzo di melanzane e faccio la pasta alla siciliana con le melanzane. Quando faccio le melanzane a funghetto? Ah, sì, lascio un po', le due pennette con le melanzane. È buono, tutto buono, gli altri vanno già. Poi roba genuina, roba sana. Mi piacciono molto le pennette con i broccoli, con i broccoletti. Gappa gappa, già va bene. E io, per Dio, pensavo di ingrassare, stando a casa, invece ho dimagrito 5 kg. Mi sono più che contento, però sono goduto a duro, tutto fasciato, tutto. Con questa schiena non posso più fare niente. Allucinante, infatti come passa questo virus, mi faccio tutte le lastre bene, perché le ho fatte un po' di anni fa. Avevano riscontrato l'ultimo anello della colonna vertebrale che praticamente non ce n'era più. Secondo me è andato a peggiorare, perché mi raschia, è una cosa allucinante, è un male, c'ho sotto proprio sopra l'osso sacro che non viene bene a dire, mi alzo tutto storto, tutto va ridotto, non riesco a fare più niente. Io da quando non sto lavorando mal di schiena non ne ho più. Ho fatto la lastra e mi avevano trovato praticamente delle calcificazioni tra un anello e l'altro della spina dorsale, e mi ha detto che dovevo fare molta fisioterapia, perché se no potevo bloccarmi e non riuscire più a inchinarmi. Cioè, una bella notizia. E praticamente si stava calcificando un anello con l'altro, si stavano unendo come se li saldassi, capito? Sì, la stessa cosa è a me. Mi ha detto la stessa cosa, non so, avanti break. Ciao Massi, dove sei di bello? Sempre in giro, sì. Prova. Non mi ho messo gli occhiali ancora, aspetta che mi metto gli occhiali. Vai, 6.5 di segnale, la radio già è buona, sarà 3, dai. Già si sente bene, non è che... Mi sento bene, non ci sono problemi. Si sente abbastanza bene. La radio si sente tranquillo. Infatti il segnale mi sembrava strano, ma non è che andai di mare che ho chiuso la RFI. Da 5 a 7 vai, però sono col dipolo io, eh. Va bene. Io sono col dipolo. Sì, da 5 a 7, la radio è ottima. L'hai cambiata quell'antenna, quale hai messo? Una bomba, va bene, Massimiliano. Considerando che sei lì, va bene. E anch'io, io c'ho 1 e 2. 1 e 1 e 2, già va bene. E per massa cosa gli hai messo, Massimiliano? Dovresti fargli una piastra larga, per avere il piano riflettente, perché quelle antenne lì lavorano sul piano riflettente, e infatti nei camion non è che lavorino molto bene dove li mettono gli specchietti. Se tu hai un punto dove riflette il segnale, allora sì che ti va bene. Quelle antenne lì sono come le mantovane, arrivano, caso io con la Turbo 2001 arrivavo lo stesso segnale che con la mantovana sotto casa. Però no, sono antenne che vanno bene. Io ho la Turbo 2001, ma me la piazzo pure io, è nata la cabissuria. Ho detto, ma ci vedi, a vento c'è sul tetto, no? Qua si muovono un bel di alberi, forse sono più in alto. Volevo dare una sistemata a quel dipolo. è Franco col dipolo anche lui, ma è troppo basso Scifra, troppo basso. Chi l'ha detto che sono troppo basso? Adesso sì che si alto. Non ce l'hai detto oggi? E adesso vediamo, c'è un mal di schiena, Massimiliano riesce a bucarne bene, grazie a Dio, ho fatto un'imbarriata di punture, come faccio l'effetto delle punture e torna di nuovo a peggiorare, secondo me nel disco, però non posso andare a fare l'altra, devo fare prima, non ci sono andata, ma non posso fare nulla, è tutto fermo, che porca miseria l'area. Signore 5 Radio Super 5. Ciao Franco. Ciao Gianni, buongiorno. A me come mi ascolti col di polo, Fra? Ehi, è Radio 5. Ehi, già va bene, già va bene. Massimiliano, un bel segnale per quell'antenna, Da 5 a 7 fai, Massimiliano. 5 a 9. Adesso funziona bene, finchia. Funziona benissimo, cazzo. Io ce n'ho una nella finestra, ti ricordi? Però quella è VHF. Arrivo ad Alghero con quella lì. Quella è come la Turbo 2001, più o meno, anzi forse superiore. Massimiliano, ma hai messo sopra quella piastra, come ti ho detto io, quella tappa piastrata? E io lo dico che a posto. Vabbè, io sono col dipolo, mi arrivi da 5 a 7, mentre invece con la trentena mi arrivi 9. Aspetta, Massimiliano, che verifico, perché poco fa stavo regolando l'apparecchio, non so che abbia toccato lo squelch per sbaglio, le referì. Aspetta, verifico. Mi sembra che sia stato un break, avanti. Ciao Vanni, buongiorno, bacino. L'altro chi è? Antonio, tu sei? Certo che ti sento, Santiago 7. No, già arrivi, arrivate tutti, arriva anche Vannino. Vabbè, io ripeto, sono col di polo, Vanni, stai arrivando bene? Oh, niente oggi. Ciao Vanni, buon pranzo, ciao Luca. Ciao, bravo, mangiate oggi? Ciao Vanni. No, prima delle due non si mangia qua, certo la sema a Milano. Ma oggi quasi mangio finito, mangia. C'ho un po' di fame, claro. Vabbè, ieri non stavo bene, ero un po' mal di pancia e io stavo cenato. Vabbè, ma qua non è che facciamo mangiare al mare. Prima delle due, due meno un quarto, quello lì, dai, se no cosa che tu vai tutta la gira da buca. No dai, io vado Claudio, che devo mettere il ravioli a cucinare, dai. Ci sentiamo alle prossimine, dai, stasera già ci sono intanto. Ciao a tutti. Ciao Gian, anche io vado proseguo a mangiare, mancava tutto ancora. Ciao Claudio, buonasera. Ciao Lu, ciao Gianni. Ciao Gianni. Avete papedato in quattro. Mi sembra che hanno chiuso tutti, boh, se mangia soldati. Me ne devo andare a mangiare. Ci sentiamo, questa l'ultima volta. E buon pranzo a tutti per lo parecchio. Ciao, a dopo. Ciao Fra, ciao. E tu lo fuoco acceso l'hai, Massimiliano? Il fuoco acceso l'hai. Ma non era acceso, Barò. Me l'hai mandato detto vado, o lo stavi accendendo. KK, mi ascolti bene di radio col 140 il dipolo? Massimiliano, ho detto se mi ascolti bene col 140 il dipolo? No, no, no. Così c'è il processore, così c'è il processore inserito. E vabbè, mica viene a metà, non è a manetta. Non è male, perché la usa in banda laterale questa, capito? Quindi devo abbassare il Mickey Gay. Va meglio così, col processore inserito. Vabbè, lo usiamo così. Già va bene. No, spettacolare questo dipolo. Da tutte le parti, anche da Eugenio arrivo. Da tutte le parti. Ehi, dai, così mi allontano anche io che c'è roba al forno. Ciao Massimi, un bacio a tutti, dai, ci sentiamo dopo. A dopo, buon pranzo a tutti, ciao ciao.